Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Questa è Eclettica. 60 minuti da passare assieme con la musica di Eclettica, le letture di Eclettica, i film di Eclettica. Sono queste le tre colonne portanti su cui si regge la trasmissione, presente fra le 19 e le 20 tutti i giorni della settimana in compagnia di Giulio Caperdoni, che vi ricordo risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. La recensione del Fabrizio's Villanova Restaurant sulla Seconda Avenue, dovuta alla penna dell'argutissimo critico culinario Fabien Plotnik e apparsa su uno dei più stimolanti giornali d'America, ha suscitato un vespaio di polemiche. Riportiamo qui sia la discussa recensione che gli accesi interventi. La pasta asciutta come espressione del farinaceo italiano neoralistico è ben intesa da Mario Spinelli, capo cuoco del Fabrizio's. Spinelli impasta la pasta con estrema lentezza, provoca in tal modo un aumento di tensione fra gli avventori che attendono sbavando. Le sue fettuccine, sebbene al dente fin quasi al limite della provocazione, devono molto peraltro al barzino, il cui uso della tagliatella come strumento di critica sociale è noto a tutti. Ma laddove al barzino's il cliente viene indotto ad aspettarsi lasagne bianche e le riceve, viceversa qui al Fabrizio's gli si servono lasagne verdi. Perché mai sembra così gratuito? Come avventori la novità ci coglie di sorpresa, quindi non ci diverte quella verde matassa sul piatto. È, anzi, sconcertante al di là delle intenzioni dello chef. Le linguine, d'altro canto, sono proprio deliziose e per niente didascaliche. È vero, vi si coglie un sostrato marxista, ma è ben camuffato dal sugo. Spinelli fu per anni un fervente comunista italiano e ottenne a suo tempo un enorme successo con un suo compromesso culinario fra tortellini in bianco e agnolotti al sugo rosso. Ho cominciato con un antipasto, che lì per lì mi parve senza scopo, ma poi, osservando le acciughette più da vicino, ne ho colto il recondito senso. Lo Spinelli vuole in questo suo antipasto rappresentare la multiforme totalità della vita, e quelle olive nere stanno là come angoscianti memento mori. Ma allora, perché mai manca il sedano? Si tratta di una deliberata omissione? Al Giacobelli's l'antipasto consiste in solo sedano, sedano assoluto. Ma Giacobelli è un estremista, intende richiamare la nostra attenzione sull'assurdo della vita. Chi può dimenticare i suoi scampi senza scampo, quattro gamberi agliatissimi disposti in modo tale da dirla assai più lunga sulla sporca guerra in Vietnam di tanti e tanti libri su questo argomento? Che furore e che scandalo a suo tempo! Oggi quello sembra un piatto da educande, però, accanto alla piccata e fuga di Gino Finocchi del Gino's Vesuvio Restaurant, una trancia di vitello lunga quasi 2 metri guarnita con un fiocco di luttuoso chiffon. Finocchi lavora assai meglio sul manzo che non sul pesce o sul pollo, e ci ha molto sorpreso che il Time non lo citi nel servizio dedicato a Robert Rauschenberg. Questo era l'incipit di Critica d'arte culinaria, da Effetti collaterali, di Woody Allen. We'll be right back. Ora, in portineria dicevano che si trattava di una cosa che finiva in ale, non in accio. Ma ragazzi, ma allora potrebbe trattarsi di calcolo renale, fistola anale, blocco intestinale, vaglia postale. Zitti! Sebbene in Eclettica non ci sia più uno spazio ufficialmente dedicato ai demo, alle autoproduzioni italiane, però la musica italiana degna di nota trova ovviamente spazio all'interno di questa trasmissione. Come per esempio i Don Turbolento, che hanno aperto Eclettica di quest'oggi, l'ultima puntata della settimana numero 44. Abbiamo poi proseguito con il nuovo dei Pinback. Non faceva ben pensare la prova solista del leader dei Pinback uscita qualche mese fa, Rob Crow, e invece, rimesso assieme alla sua band, è ritornato ai livelli del passato. Autumn of the Seraphs è il titolo dell'album dal quale ci siamo appena ascoltati From Nothing to Nowhere, in uscita l'11 di settembre per Touch and Go. E sempre in quei giorni di settembre, con un solo giorno di differenza, ovvero sia il 10 di settembre, esce il nuovo, che è solo il secondo nella loro carriera, degli Akron Family, quartetto di Brooklyn, che questa volta esce per Young God Records. Un album, Love is Simple, che già vi ho detto uscire il 10 di settembre, che avrà anche una quantità limitata di pubblicazioni con le immagini delle ultime quattro date del loro tour. Phenomena. is why. Others think it is brown. Some might think this isn't the right is white. Others think he is brown. Some might think this isn't the right Spinelli, a differenza di questi chef d'avanguardia, non si spinge però quasi mai fino in fondo. Esita spesso, e ciò fa sì, nel campo dei gelati, che i suoi spumoni arrivino al tavolo in stato di avanzato squagliamento. Si colgono incertezze nello stile di Spinelli, specie nel trattamento degli spaghetti alle vongole. Prima di andare in analisi, le conchiglie atterrivano Spinelli, una vera fobia. Fatto sta che agli esordi ricorreva spesso a surrogati di mollusco, usando olivette, sottaceti, noccioline americane e, perfino prima del crollo, pezzettoni di gomma per cancellare. Un bocconcino prelibato, al Fabrizio's, è la parmigiana di pollo disossato, capolavoro di Spinelli. Il titolo è ironico, poiché, anzi, il nostro rimpinza il suo pollo di ossi supplementari, quasi a dire che la vita non va trangugiata, ma spolpata con estrema cautela. Il costante rosicchio, l'estrazione di quegli ossi dalla bocca e il loro tintinnio sull'orlo del piatto danno al pasto un bizzarro effetto sonoro. Si pensa a Webern, nome tutelare della cucina di Spinelli. Robert Kraft, in un saggio su Stravinsky, fa un interessante accenno all'influenza di Schoenberg sulle insalate miste spinelliane e, al contempo, rileva l'influenza di un pasticcio di quaglie di Spinelli sull'uccello di fuoco di Stravinsky. Cronologia a parte, sta di fatto che il suo minestrone resta un valido esempio di cucina atonale. Zeppo com'è di nervetti e gnocchetti e tocchetti di cotica dura, costringe il fruitore a produrre rumori con la bocca mentre li ingerisce. La composizione del manicaretto è tale che codesti rumori si ripetono in ordine seriale. La prima sera che misi piedi al Fabrizio's, due avventori, un giovane magro e un uomo grasso, stavano assorbendo questa zuppa all'unisono. e gli effetti dodecafonici che seppero trarne gli valsero un applauso a scena aperta. Per dessert ci fu servita una cassata alla Tortoni, dal nome del celebre ristoratore parigino dell'Ottocento, che a me fece pensare a quel noto apoftegma del Leibniz: le monadi non hanno finestre. Quanto a proposito. I prezzi del Fabrizio's, come ebbe a dirmi Hannah Arendt una sera, sono ragionevoli senza essere storicamente inevitabili. D'accordo. Questo era ancora l'incipit di Critica d'arte culinaria, da Effetti collaterali, di Woody Allen. Thank you. E in un attimo, almeno dal mio punto di vista, siamo arrivati quasi alla fine. Mancano pochissimi minuti della prima parte di Eclettica, poi ce ne sarà altrettanto per arrivare fino alle 20 in compagnia di Giulio Caperdoni. Dall'irlandese Simple Kid, appena ascoltato con Serotonin, alla francese Valérie Loliot, da ascoltare con Mon Homme Blessé. Venne da autorità reintegrato della propria preziosa attrezzatura di piacere che stava per essere trapiantata come dito mignolo del piede sinistro ad un falegname della Val di Susa.